Luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, mi sto facendo largo tra la folla, sono nella Cappella Sistina e guardo naturalmente stupefatto, come sono tutte stupefatte le persone che guardano la volta, le pitture di Michelangelo che rifulgono di colori sgargianti. Bene, fino a più di 20 anni fa questi colori non esistevano, e chi ha riportato questi colori alla luce? Una persona, Gianluigi Colalucci, che è stato il grande restauratore dal 1980 al 1994 di questa grande immane impresa di Michelangelo, le lunette, la volta e poi il giudizio universale. Bene, questo signore ha scritto un libro molto interessante, coedito dalle Edizioni Vaticane e da 24 ore cultura, in cui racconta finalmente il restauro come lo può raccontare un uomo. Lascia da parte tutti i tecnicismi, naturalmente, dei solventi e delle cose usate, e racconta questa avventura umana straordinaria. Il libro è pieno naturalmente di meravigliosi aneddoti. Pensate che lui cominciò trovandosi per caso su un ponteggio più alto del previsto, riuscì a sfiorare Michelangelo e cominciò, pensate, con un fazzolettino intinto nella saliva, un fazzolettino di carta, fece un piccolo saggio e si accorse che dietro lo spurcizio terribile che occultava gli affreschi si vedevano i colori originali, e da lì è cominciata questa lunga avventura che ha portato lui a lavorare anni e anni sui ponteggi e ad accogliere anni e anni di personaggi che salivano a curiosare. E qui ci sono gli aneddoti forse più divertenti, perché il povero Colalucci ha dovuto non solo spiegare a re, regini e principesse questi affreschi, ma ha dovuto anche farsi largo tra dei feroci oppositori che naturalmente erano talmente offesi che al momento buono non salivano nemmeno a vedere cosa stava facendo e ascoltare le sue ragioni. Ci sono anche dei curiosi siparietti, per esempio quando salì Gianni Agnelli, che osservò in silenzio le pitture e poi si espresse con queste parole molto divertenti. Colalucci si chiedeva che cosa esattamente di divertente ci trovasse in questo straordinario affresco. Quindi si tratta di un diario di lavoro fatto da un restauratore che ricorda a tanti anni di distanza l'impresa più importante della sua vita.